posto dove i soldi fanno la gioia. La gente è diversa da quella ricca alla povera. Il padrone rimprovera il garzone per pochi spicci. Qualcun altro per i soldi si mette nei pasticci. Che cosa bisogna fare per vivere? La gente è capace anche di uccidere. Niente di bello, lavori per sopravvivere, non per vivere. Arrivi a fine mese dopo tasse e spese e capire che qua è dura la vita, la combatti. Gente che parla e non fa i fatti. Quattro vite per poter pensionarti. La sera chiudi gli occhi e parti. Immagino un mondo di santi amanti. I tanti contanti dell'industriale in carriera. I cash dei figli di papà con la carriera. I barboni che dormono in stazione la sera. E c'è chi vorrebbe un mondo diverso e spera. Prega per te, non per gli altri. Sai benissimo che dovrai arrangiarti. Niente di bello in questo mondo. Tutti vivono, io affondo. Chissà se un giorno crollo sfondo. Prega per te, non per gli altri. Sai benissimo che dovrai arrangiarti. Niente di bello in questo mondo. Tutti vivono, io affondo. Chissà se un giorno crollo sfondo. Contanti sparsi, ce ne sono tanti. Ma lavora per te, non per gli altri. E poi un giorno vedrai che non saranno tanto distanti. In questo mondo se non lavori non ci mangi. Quello che vuoi, sai, ce lo guadagni. E poi spendi, stipendi, spandi contanti. I soldi, sai, aiutano a vivere. Per questo ogni santo giorno sei felice di sorridere. L'amore per la famiglia ti fanno percorrere mille miglia. Per l'affetto della moglie, figlio e figlia. Prega per te, non per gli altri. Sai benissimo che dovrai arrangiarti. Niente di bello in questo mondo. Tutti vivono, io affondo. Chissà se un giorno crollo sfondo. Prega per te, non per gli altri. Sai benissimo che dovrai arrangiarti. Niente di bello in questo mondo. Tutti vivono, io affondo. Chissà se un giorno crollo sfondo. Ti addormenti e pensi che domani magari sarà diverso. Ti assicuro non c'è niente di bello. C'è gente povera senza tetto. Gente sfrattata perché senza soldi per l'affitto della casa. E si ritrova in mezzo alla strada. E si lamenta per questa vita spesso amara. Ma le tasse chi cazzo li paga? Il denaro per alcuni esseri umani è raro. Mandano la vita al diavolo. Prega per te, non per gli altri. Sai benissimo che dovrai arrangiarti. Niente di bello in questo mondo. Tutti vivono, io affondo. Chissà se un giorno crollo sfondo. Prega per te, non per gli altri. Sai benissimo che dovrai arrangiarti. Niente di bello in questo mondo. Tutti vivono, io affondo. Chissà se un giorno crollo sfondo.